il diverso, trova sempre meno spazio, e tutte quelle volte che il mondo non dà mai un cazzo, tutte quelle volte in cui il pensiero fugge, e tutte quelle volte in cui il mio cuore lugge, e tigri, tigri sopra a un naufragio, incredibile come una strage, invincibile, e tutte quelle volte in cui volo sotterra, e tutte quelle volte che invece mi faccio guerra, e tutte quelle volte in cui mi trovo a urlare, e tutte quelle volte che semino a seminare, e tutte quelle volte in cui avrei voluto fuggire, e tutte quelle volte in cui avrei voluto dire. Un solo salto, quell'altro, e tutte quelle volte che dall'altra sento le voci, e tutte quelle volte in cui tu mi dici, e tutte quelle volte in cui avrei voluto saltare, e tutte quelle volte in cui avrei voluto dire, e tutte quelle volte in cui il cuore mi sale alla gola, e tutte quelle volte in cui direi una volta sola, e tutte quelle volte in cui sarei voluto volare, e tutte quelle volte in cui ho dovuto planare, e in fondo non c'è una guerra in cui ci sia una soluzione, il male migliore non si trova, è soltanto la voce che prova, e tutte quelle volte in cui il mondo sembra sotterrare tutte le chance che ho voluto trovare, e tutte quelle volte in cui ho voluto pensare a mondo migliore, in fondo non c'è mai bisogno, non c'è mai sotterrazione di tutto questo squaliglio, e tutte quelle volte in cui avrei voluto pensare a mondo diverso, in cui poter amare, amare il mondo migliore, amare il mondo profetico, amare il mondo in cui tutto sembra patetico e meno profetico, e tutto quanto quel bisogno di voler capire, e tutte quelle volte in cui avrei voluto dire, e tutte quelle volte in cui il sogno mi sembra perso, e tutte quelle volte in cui io mi sento diverso, e tutte quelle volte in cui avrei voluto un canto al cielo, e tutte quelle volte che invece sono stato un mistero, e tutte quelle volte in cui il cuore mi sale alla gola, e tutte quelle volte in cui l'amore non sembra sempre una lama, e tutte quelle volte in cui il disegno sembra sempre più solitario, e tutte quelle volte in cui mi sarei voluto sentire meno imparziario, in questo mondo di verde, in cui dividendo sembra sempre qualcosa che sembra sempre sopra sogno, e tutte quelle volte in cui il mondo sembra sempre una merda, e tutte quelle volte in cui di giuro sembra sempre una gabbia, e tutte quelle volte in cui avrei voluto sognare, e tutte quelle volte in cui il bisogno sembra sempre dimezzare quelle chance che lascio sempre la voce, e tutto quanto taci, e il mondo sembra sempre meno capace, e quando torno a sognare nel mio letto sono migliore, il mondo sembra sempre solo, solo pensare se le solitarie che fanno sempre, e quello che volte sembra sempre sognare, e quelle volte mi sembra sempre meditare, il male migliore sempre sembra la superficie, il male migliore torna sempre alla radice, e inizia a asciuga, e prosciuga ogni sostanza, ogni mancanza, ogni presenza, in quella stanza, torno a tornare, in quella stanza, dove tutte quelle volte avrei voluto capire, tutte quelle volte avrei voluto sognare, tutte quelle volte che avrei voluto dire ti amo, ma tutto asciuga la radice, e in fondo sogniamo qualcosa di diverso, che torni sempre meno un mondo più sperso, un mondo che lascia sempre disincanto, un mondo che sembra